occasioni. Parli di gang, di droga e milioni. Non vai fuori dal club, dalla porta dai coglioni. Manda le soluzioni che scopro chi è che comanda. Ferro re dei sette toni, tu mette le illusioni. Parli di gang, di droga e milioni. Non vai fuori dal club, dalla porta dai coglioni. Manda le soluzioni che scopro chi è che comanda. Scrivo un botto di roba, se ne sto sotto. Il peso della mia foga, faccio il botto. La mano che trema tipo da roba, la stanza giro baoba. Studio il moto, non fermarla e metti l'inerzia alla prova. La rabbia è lava su corpi di carta, carta vetrata, lima cuori di malta. Se là fuori si salta, lavori fine 40, poi si salta. Terra tarata, riponi sogni dovata dentro una panca. Meno parole, più fatti, è lo strasuccesso dei fatti. Chi urla, meno parole, tu fatti. Il mix di sangue come nei patti, lascia segni sugli assegni falsati. Da dietro urla, tu fatti. Tutto ruota, torna allo scambio. Che sia di soldi, di droga, di affetto, cambia la moneta di scambio. La lingua, se con un angelo che la cambio. Grazie alla finta, una lingua più colputa se non ricambio. Io il re delle visioni, tu mette le illusioni. Parli di gang, di droga e milioni. Non vai fuori dal club, dalla porta dai coglioni. Manda le soluzioni che scopro chi è che comanda. Ferro re dei sette toni, tu mette le illusioni. Parli di gang, di droga e milioni. Non vai fuori dal club, dalla porta dai coglioni. Manda le soluzioni che scopro chi è che comanda. La terra trema, se la paura che la pervade. Il sangue cade, ogni goccia fa l'eritema. Perché è la gravità che prevale, la catena si può associare. Se c'è il perbonismo fa fallire il tema. Tu sei la rotella di un sistema, ma la rotella ti manca. Rimpiazza con Fernet Branca, sensazioni d'altalena. È così che ti sistema, il plasma è con te in banca. Fregature che si altalena. Non sanno i vicoli, ma insieme i limiti con cui ti vincoli. Al limite, limiti, limiti da cui ti svincoli. Che come lividi, per quanto piccoli, sono la prova dei colpi dei loro singoli. Ho il ferro, alla tibia i suoni, non il ferro, la soluzione alle colluttazioni. Ma è il bello, sta nelle propensioni col cervello. Se solo con la polvere uccidi le preoccupazioni. Io il re delle visioni, tu mette le illusioni. Parli di gang, di droga e milioni. Non vai fuori dal club, dalla porta dai coglioni. Manda le soluzioni che scopro chi è che comanda. Ferro re dei sette toni, tu mette le illusioni. Parli di gang, di droga e milioni. Non vai fuori dal club, dalla porta dai coglioni. Manda le soluzioni che scopro chi è che comanda.